aquí. Sorry de no se no late. Aquí. C'est un nom, c'est pied doué. E finita fra di noi, ma forse fonde la mia vita e rimasta le occhizzole a chi io farò se non a te. Amì. Racconterò tutti i sogni lo sai, ma hai fatto male lasciandomi solo, sì, ma non importa, io ti aspetterò. Ah, aquí, io se non a te, a chi racconterò tutti i sogni miei. Lo sai, ma hai fatto male lasciandomi solo, sì, ma nell'importa io ti aspetto.